vuoi? Sbrigati. E rilassati. Sbrigati. E me sto a sbrigare. Sbrigati. Come? Ti hai detto che non ho capito? Sbrigati. Ah sì? Sì. Se sarà. Oh, te vuoi sta buona? Io sto buona. E non mi pare. A me mi pare. A te te pare che? Mi pare che sto buona. Se se. Sì sì. Se se. Se, ciao cuore. Che vuoi? Cazzo te guardo. Te guardo. Perché? Perché te guardo. Perché mi pari matto. Ma io? Sì, te. E a me non mi risulta. Che? E non mi risulta che sono matto. Risulta a me però. Dove te risulta? Te preoccupa. Mi vedi preoccupato. Te vuoi sbrigà? Che? Te vuoi sbrigare? Ma che devi da fare, eh? Mi dà fastidio. Perché? Sei lento. E sono meticoloso. Sei fiacco. Sono attento. Sei addormito. Sono sveglio, sono più sveglio di te. Senza tanto sveglio. Ma non so sveglio, no? No. Ma me fai finire? Sì, ma ce la fai prima di domani. No, ce la faccio prima di subito. Oh, guarda che me la faccio tutta io, eh. Chi mangia solo se strozza. Che non lo sapevi? No. E lo sai che fine fai? E che fine faccio? Fa una finaccia, fai. Mazza, sta a tremare. Ah sì? Che non mi vedi? E sbrigati cazzo. E ho fatto, ti è? Guarda che cavolavoro che t'ho cacciato fuori. Mazzo, famo il kiss. Lo sai che mi piace? Lo sai pure a me. Mi piace da morire. E pure a me. E pure a me mi piace. E dai. E andiamo. E andiamo, e dai. Alla salute. Alla salute. Ricetta del giorno, lo chef consiglia. E chi sarebbe lo chef? E come chi sarebbe, so io. E che consigli? Fumata le nuvola bianca. Tu pia la bottiglia, riempi mezzo pieno d'acqua, ci fai un buco, poi pia la coca, squagli sul cucchiaio, la rimetti sulla bottiglia, allarghi i polmoni e ta fumi. Che dici? Io la consigliamo a tua madre. Sì, a Natale con tutta la santa famigliola. E dopo che te sta la preghierina? Alla salute. Alla salute, amò. Alla salute, amò. Alla salute di tutti quanti. A chi ci vuole bene. E a chi ci vuole male. Ma soprattutto, a nostra. Cristo addosso, mi piace assaggiarte dentro addosso, pippate il sangue, fumate il cuore, stappate le mutande amo, sei l'amore che me succhiamo, come nessuno me succhia, mi piace starte dentro, sentitelo tutto gridata amo, io che te grido amo, che grido amo, Cristo Gesù Cristo, non me fa sentir lontano, non me fa sentir solo amo. Non me fa sentir lontano, non me fa sentir niente amo, non me fa sentir niente amo, non me fa sentir niente amo, non me fa sentir niente amo. C'ho bisogno di te, ecco che vorrei, c'ho bisogno dentro, te vorrei spatte dentro, dentro di te amo, fuori di me. Non me fa sentir lontano, non me fa sentir lontano amo, non me fa sentir solo amo. Cristo cazzo amo, non me fa sentir lontano, non me fa sentir niente amo, non me fa sentir niente amo, non me fa sentir niente amo, non me fa sentir niente amo. Guarda, oh, quello è il mio preferito. 747, guarda che bello che è. Mamma, un mezzo alle dune, amo. Ma che cazzo stiamo a far qua? A Ryanair c'è l'arpa. Perché? Perché sono irlandesi. Beh, l'arpa è il simbolo irlandese. E la Spagna? Aerei spagnoli, vuoi dire? Sì, aerei spagnoli. Iberia c'ha la corona. E con la marocchina? Una stella. A me mi piace una stella. Perché non stiamo tutta la notte, amo? Perché mi fa malumore, amo? Guarda! Oh, quello che è? Ma che ne so? Ma come che ne so? Quello è un KLM. Ma che è? Tipo una droga? Una compagnia olandese. Te l'ho detto che è tipo una droga. Te sei proprio d'incazzo a te, oh. E se ce n'andassimo, amo? Perché? Che cazzo stiamo a fa' qua? Ma come, oh? Ma che cazzo stiamo a fa' qua? Dov'hai? Tipo in Olanda. Dov'hai che non sai fa' un cazzo? Io so fa' tutto. No, te sei fatta, ma tutta. Perché che pensi? Che se trovi i soldi in ce vado? Oddio, sì. Oh sì, dimmelo ancora che te ne vai come piace. Dimmelo, dimmelo. Ma ti ho dato via da sta merda. Devo trovare un po' di soldi, mica tanti. I soldi per l'aereo. E per stare un po' là i primi tempi. Magari i primi tempi faccio un lavoretto. Come fai? Che cazzo cambia? Poi imparo la lingua. Vai, va. Va a imparare la lingua, va. Io so svelta a imparare. Sì, sì. Sì che? Sì, sì, sei sverta. Sì, sono sverta, e allora? E allora che? E allora ciao, per volo. Ma dov'hai? Dove pare? E dove? Lo dico io. E dove dici? Vado via, via, scomparo, sparisco, non mi faccio più vedere. Ma dov'hai che non sai neppure dove sta la strada, ragazzi? La strada la so. Non sai manco uscire da qua, oh. No, io più vedere. A chi? A me? Sì, a te. E vattene, e vattene. Tanto non c'è sta niente qua intorno, hai capito? È tutto vuoto. Vattene, c'ho bisogno di nessuno io. Chi te? Non c'ho bisogno di te, non c'ho bisogno di mia madre, non c'ho bisogno di mio padre. Lo sai che io ho risposto, no? O lo sai? Lo so. Un giorno mi sei presente e mi fa: oh, c'è sta il concorso all'aeronautica. Ti piace far pilota a papà tuo? Mi dice: non ti preoccupare. Lo sai che te dico, gli ho detto. Lo sai che te dico? A papà. Lo sai che è il sistema di carburazione? Come funzionano i comandi, tutti i sistemi di movimento, il motore pezzo per pezzo, i sistemi di controllo di volo? Lo sai che è, papà? Lo sai che io ho fatto il paracadutista nella Forgore, papà? Eh? 183esimo reggimento Nembo. Lo sai che è, papà? Lo sai che è l'MD-80, l'M-16, l'F-14 Eagle, l'F-15 Phantom? Lo sai che è, papà? Come? Ma c'è sta tanta gente che mi vuole bene, che mi vuole da una mano. Gente importante, oh, gente seria. Tanto brave persone, tanto bravi cristiani, a cui tu lecchi tanto bene il culo, eh. È bravo, papà, sei proprio il meglio, sei. Eh? Ah, so, favoletta, papà. Aso, il figlio del pilota far pilota, il figlio del portiere far portiere, il figlio d'avvocato fa avvocato, il figlio dell'attore fa attore, il figlio del politico far politico, ma papà, il figlio della mignotta che fa? Hai finito di inventare. Ma che ne sai tu? Ma che ne sai tu? Ma lo sai tu allora? Non hai fatto nessun esame bello, te sei cagato sotto, ma che te stai inventando? Zitta. A poeta! T'ho detto zitta. A canta storie! Te devi sta zitta! A cantante, cantami una bella canzone, bollare, oh! Oh, io non mi sto inventando cantante, niente, hai capito? Niente, te devi sta zitta, zitta! Scopamo? Non me va. Non te va? Sì, non me va. Perché? Come, perché mi fa incazzare? Ah, sì? Sì? Sì. Amo, te voglio. Stronzo. E dai, amo. Perché non t'hanno preso? Vieni qua che te lo racconto. Te sto a sentire. E dai, non fa difficile, vieni qua. E racconta, te sto a sentire. E fammi vedere. Perché non t'hanno preso? E dai, amo, te voglio. Ah, sì? Eh? Sì? E te dico di sì. E io ti dico di no. Non te la do. Te la puoi scordare. Te la puoi dimenticare, poi. Vatti a trovare qualche sgallettata che te la mostra, ma da me non becchi niente, niente. Sei lento, sei una lumaca che cammina lenta, io sono sverta, troppo sverta per te. Non mi prendi e non mi prenderai, sono troppo sverta per te. Oh, vedi quell'aereo lassù, quella so io, sono una cazzo di stella che vola e non mi prenderai perché io so fa da sola, io non c'ho bisogno di te. Sei lento, sei una lumaca che cammina lenta, sei lento, troppo lento, troppo lento, troppo lento, troppo lento, troppo lento, pilota, permetti una parola, ma vaffanculo. No. Ma andiamo da là, che qua ci sono erbacce. Da là mi fa paura. Dai, amo, vieni qua. Amo, e l'aereo italiano che sta maciando? Oh! Oh! Oh! Amo! T'ho risposto! Amo! Senti che mi sono sognata l'altra notte. Era a lungomare con mia madre e mio fratello. Eravamo tutti acchittati che pareva che dovevamo andare a matrimonio. Eravamo belli. Che eravamo proprio fighi. Cioè ero proprio una figa. Pure a mia madre gli fischiavano tutti quando passava. A un certo punto mio fratello si ferma, ci guarda, ride e se ne va. Dove vai? Dico io. Poi sento mia madre che urla: guarda, guarda, mi si sta a squagliare la borsetta dell'Occhitti. Mi giro e mi vedo che mi si stanno a sciogliere i Mix Sisti nuovi nuovi appena comprati. L'occhiali Carrera mi si stanno a squagliare in faccia. Mi giro e vedo mia madre che pare che piagne. Oppure c'ho i Ray-Ban che sono diventati come una colata di vomito. I French Fries, la maglietta Franchi Garage, la medaglietta d'oro da Roma sono diventati come una pappa unica. Allora io provo a prendere l'iPhone per chiamare la polizia, qualcuno, ma l'iPhone ci si squaglia lungo le mani. Noi cominciamo a gridare, a urlare come ossesse, ma la gente non fa niente. Ci guarda, ride e ci via per culo. Noi rimanemmo nude, zitte, mezza passeggiata del lungomare. Hai capito che flashata? E tuo fratello? Mio fratello? Tuo fratello. Ma mio fratello quello è uno stronzo. Dai, io, non è stronzo. No, no, quello è proprio stronzo, pure nel sogno. Va bene, però voglio dire, che fine ha fatto? T'ho detto che se n'è andato. È uno stronzo. Ho capito, ma dove? Ma come dove? Dove? Ma che cazzo ne sarà il sogno? Tirala fuori. Ehi, guarda che mo se la finimo, eh. Ma mo se la pippatina. Io te lo dico, ce ne sta poca. Sei proprio rabbino. Ascoltami bene. Tuo fratello è uno stronzo. Ma non è come quei pezzi di merda figli di papà che ci hanno il culo parato e intanto lo sanno che se fanno gli impicci stanno a galla. Fanno un cazzo a 13 anni e sto stronzi a 13 anni. Fanno un cazzo a 16 anni e se comprano il diploma. E sto stronzi a 20 anni quando non fanno un cazzo all'università e si laureano. E come gli stronzi vanno a lavorare col padre. Quelli in Soboni manca uscita la tazza del cesso da soli. Solo se li metti sull'acqua Soboni a galleggiare. Come gli stronzi. Perché tu da dove vieni? Bella, io sono diverso, sono di una razza speciale e poi tu non dovevi far così con tuo fratello, Pippa. Perché? Perché è tuo fratello, Pippa. E allora è sempre una merda. Oh, è tuo fratello, lo devi rispettare, e Pippa? Ha messo le mani addosso a mia madre. Ma non è vero. Perché c'eri te a casa? Ma che c'entra? Ha messo le mani addosso pure a me. Ma falla finita che tua madre dice di no. Mia madre è la madre. E che vuol dire pure tu madre, oh? Lo so, purtroppo. Oh, quella è tua madre, quell'altro è tuo fratello. Quello è fio maschio, e fio maschio non si tocca. Ma i valori, cazzi, i valori. Tu non rispetti la famiglia, oh. Perché tu rispetti tuo padre, tua madre? Ma che vuol dire? Ma quelli mica vanno rispettati, oh. Che differenza c'è tra me e te? La differenza è che tuo fratello non ha fatto niente, oh, dice il giudice. Che dice il giudice? E dice che non ha fatto un cazzo, che se tua madre... Ma che cazzo ne sa il giudice? Ma che cazzo ne sei te? Ma incontrano dentro casa e già sanno tutto. Le fa comodo pensare così, le fa sentire superiori. Ma non lo vedete che non ci stanno più confini? Non lo vedete che non state più al centro, che non siete più al centro? Va, va, va da bambino tuo, scappa con io, scappa! E da chi dovrei scappare, eh? Da chi dovrei scappare? Dai cani da guardia come voi? Noi lo sappiamo chi siete, noi vi sappiamo trattare. Le carichiamo, ve le famamo se vuole, voi andate a mozzicchiare. Beve bastorame, ve rabbonimo quando ci avete la bocca sporca di sangue. Vediamo un sorso d'acqua e voi siete contenti, scodinzolate. Perché ci avete sempre bisogno di qualcuno che vi dica quello che dovete da fa, voi. Ma voi chi? E chi? Noi. Ma noi chi? Ma noi chi? Io, ma te. Ma te chi? Ma te che cazzo vuoi? Pippamo. E pippamo. Mi fai ridere. Perché? Tu parli dei valori e manco se lo stanno. Ma perché, oh? È brava? Eh? È brava? Ma che senti? Che ci hai fatto? Ma di che stai a parlare? Oh? Che ci hai fatto con qua la nana biondina che ha la frangetta da mongoloide? Chi t'ha detto? Tutti! Chi t'ha detto? T'hanno visto! Fammi i nomi! Tutti! E chi? Fammi i nomi! T'hanno visto! Ma chi? Ma dove? Oh? Non nega l'evidenza, bello! Ma bella, io non nego niente! Sicuro? E tu a chi credi? A me allora? E tu chi credi? A mia madre, a mio fratello o a me? Caccia fuori un po' di roba! E ancora? Perché ma fatene a me? A chi te tu? A chi ti va bene però? Preparate! Ti faccio una striscia così lunga che ti tocca via la macchina per un forno! E dai! E andiamo! E andiamo, e dai! Lo sai che mi piacerebbe fa? Un patto col diavolo! Solo che non si fa mai vedere! Perché non si fa mai vedere? E prova a fargli un fischio! A diavolo! Adia! A Belzebù! Il diavolo è da Lazio! È troppo burino! Ma non vedi come cazzo si comporta, come cazzo ho vestito! Se veste dai cinesi! Pure i corna ha preso la bancarella dei marocchini! Dio è da Roma, non può essere da Lazio! Dio, Dio, Dio! Dio! Addio! Dio! Te la posso fare una preghierina? Oh, però mi devi ascoltare, mi devi dire se non c'ho ragione. Dai un po'. Tu che hai inventato la coca, perché l'hai inventata? Per far del bene all'umanità, giusto? Giusto. Ma il diavolo? Che è da Lazio. Brava. Disse che la coca doveva essere la droga dei ricchi. E allora tu te incazzasti e facesti un accordo con i narcotrafficanti. E gli dicesti... Ah, narcotraffica! A coca... Deve essere tutti! E fu così che il gruppo dei sudamericani partì col culo pieno di tanti piccoli kinder sorpresa gonfi di coca! Trasvolò e cammina, cammina... E cammina, e cammina... Arrivarono in Europa! Ma il diavolo! Che da Lazio! Ah, allora hai studiato! Certo! Tentò di fermarli alla dogana, ma quelli, scappando, scappando, gridavano... Una sorpresa su cinque, una sorpresa su cinque, una sorpresa su cinque, sarà uno di noi, sarà uno di noi. E gridando, gridando, si è sparsa la voce. Eh sì, perché tutti volevano i superpoteri che stavano dentro al culo del sudamericano. Tutti volevano il raggio fotonico. E la melodanza. Ma la barda spaziale. E fu così che tutti cominciarono a cantare, a ballare, a festeggiare, ma soprattutto cominciarono a pippare, oh, senza smettere più. E fu così che il mondo diventò migliore. Ecco, allora, dico io, Dio misericordioso, tu che ci hai dato l'iPhone, l'iPad, la cinta D&G, a borsettello Kitty, e Nike Shox, e Dash, a Pepsi Cola, e comode rate mensili, il Titti Roadster. Perché? Ma perché ci dai un po' di coca quotidiana? Amo, lo sai che mi piacerebbe avere? Che? Per pezzo, a pistola. Per far che? Per tirare una botta secca, pam! Per tirare una botta secca? E perché, scusa, la lama non ti piace? Sì, la lama, pure la lama. La punterai in faccia a qualche stronzo. Tipo a chi? Tipo a mio fratello. Lo faccio cagare sotto quel figlio della mignotta. E poi? E poi ai rumeni, con quei facce da pizza in faccia che te guardano e te dicono motta in culo, motta in culo, motta in culo. Ah bella, a me non mi incula nessuno, nessuno mi incula a me. E poi, e poi? E poi hai zingari, piagni e frutti. Ah nonna, ma lavora per te, per quelli come te, te invece fa cazzo, va a chiedere l'elemosina ai ragazzi, non te vergogni. Giorno all'altro te la dà una bella puncicata, così voglio vedere come piagni davvero, voglio proprio vedere. E poi? E poi è indiani perché stanno sempre a ride, ridono, ridono con quei sorrisini farsi, ridono mentre te vendono le rose piene di piscio, ridono mentre te versano la benzina e sentano la versano, ridono e te guardano male, ridono mentre te spuntano dal finestrino con le spazzole con 42 denti bianchi. Lo sai che ti dico, indianetto? Ma lo sai che ti dico? Ma che cazzo devi dire che pucci d'aglio da qui a fare il raccordo? Hai capito, indiano del cazzo? Ecco, soprattutto ai indiani mi piacerebbe puntargli il coltello in faccia, vedete come le hanno l'espressione, ma non ridi più, non ridi più. E ridi, e ridi, e ridi. E che gli fai agli indiani, che gli fai? Così. Ai marocchini. Così. Ai zingari del cazzo. Così. E a quello stronzo di tuo fratello. Così, così, così. Cristo dasce la coca, facci assaggiare, Samorà, Pippa, la nostra coca quotidiana. Rimetti a noi i nostri buffi come noi rimettiamo ai nostri buffaroli e regalaci il nostro pane quotidiano. Cristo misericordioso, ma se esisti davvero, fa piove un po' di coca dal cielo. Sei uno stronzo e psicopatico. Ma chi io? E chi io? Fai uno squillo. A chi? A Pusher. Ma non me va. Chiamano, no? Ma mi ha detto che passava e mo passerà. Qui? Dove? Sei proprio un infame. Ma che cazzo vuoi? Si è finito tutto, si è finito. Amo, e manco te lascia un pippotto. Perché lui pensa solo a lui, perché lui esiste solo lui. Ma non è vero. Ma me lo chiesto il giro saputo del Pusher. Perché lui è disposto a fare i servizietti per farsi fare i regalini. Quanto te ne sei fatta regalare? Basta. Perché non dici la verità? Ah, devi smettere. Lasciami. Te permette più. Mi prendi per collo. Zitta. Non te vergogni. T'ho detto zitta. Mi hai fatto male. Tu mi fai incazzare. So che ti passa per cervello, mi metti paura. Falla finita, non ti ho fatto niente. Che quando strilli così c'hai bisogno di essere calmato. Vado con tua madre. Oh, quegli urli mi entrano dentro al cervello. Ah, devi smettere di entrarmi dentro al cervello con quegli urli. Una volta uno mi ha offerto due piotte. Perché? Come perché? Per dargliela. E tu? Secondo te? Secondo me. Secondo me ne ho data. E ce credo. Tu hai fatto per molto meno. Ancora? Sì, ancora, tu mi fai male. Ce la faccio a pensare a te che vai con un altro, mi fa schifo. Ah bello, quante volte mi hai messo le corde? Mai. Col Pusher? Cazzo, coletta biondina? Non ci ho fatto niente. Ma niente? No. No. No, niente. Ah, no, oh, ti ho detto di no. Sarà? Tu mi spareresti? Certo. Ma come certo? Se hai fatto qualcosa, certo. Ma tipo? Tipo che mi tradisci. Ah beh, allora io invece ti ammazzo. Tipo che mi tradisci ho qua una biondina che ha la frangetta da mongoloide. E tu allora? Io c'ho altro da fa. Cioè? Io c'ho un sacco di progetti. Ma quali? Ma come quali? Ma quali? Quali progetti c'ha? Ti vengo a dire a te. E chi io, Eddie? Sono cose mie. Ma che cazzo stai a dire? Perché non ci passare le cose mie? Ma no che? Ho detto di no. Ma no come? Non ci puoi avere le cose tue. Te ringrazio. E te saluto. Te saluto. E te ringrazio. Forza Roma. Abbassa la razza. Che c'è? Niente, voglio andare via. Perché? È finita. Chiama. A quest'ora? Chiama. Ma chi? Chiama il Pusher. Ma mi ha detto che passava. C'è nessuno, chiama. Oh, non chiamo nessuno. Chiama, mi sono rotto il cazzo e sta qua. Non chiama nessuno, quello c'ha sempre le guardie attaccate al culo. Se lo andiamo a prendere? Ma non me va. Cazzo, c'ho bisogno. Oh, vabbè, pure io. E allora io mica faccio tutte ste scene. Ma no. No. No. Ho detto di no. Sto male, mi sento male, portami via. Ma che stai a dire? Portami via, sto male. Da Maia che stai qua? Portami via, va a cercare qualcosa. Ma dove, oh? Ma porca puttana, va a cercare qualcosa, sto a tremare, va a cercare qualcosa. Vado, vado. E che me lasci sola? E che no? Vengo con te. Ma no. E allora? Allora chiamo. Allora? Spento, vada via, amo, t'annamo. Cazzo, non ce la faccio. Che cazzo, ma voi che sei aiutata? Amo, sono schifo, non ce la faccio. Ma com'è possibile che abbiamo fatto le stesse cose? Amo. Io sto una crema, sto una favola. Amo, mi sono presa l'MDMA. MDMA? A merda de mamma aromatica? Sì. Che cazzo te l'ha dato? Cazzo te frega chi m'ha dato? Fio la moto, te lascio qua, non sto a scherzare, chi cazzo te l'ha dato? Il barista del locale dove lavoro. Ma che cazzo? Ma quello è uno stronzo. È una merda quello. Ti ho detto che non ce ne devi parlare, ti ho detto che non lo devi frequentare. Che cazzo, quella puttana non te si può lasciare da sola, non te si può lasciare. E poi me lo viene a dire a me, me lo viene a dire che va la scomaggia. Con che l'hai pagato? Con che l'hai pagato? Rispondi! Te sei fatta scopare! Te sei fatta scopare, rispondi! Sto male. Io te lascio qua. Non fa lo scemo. Chiama l'ambulanza. Ma non viene nessuno. Chiamo qualche amico tuo. Ma che faccio? Fa qualcosa. Ma non lo so. Fa qualcosa. Ma che faccio? Sto male. Amore, ho visto gli angeli. Sono fatti di cartapesta, vengono con gli aerei. Con quelli dei marocchini. Quelli con la stella. Passano, salutano e poi tornano indietro. Poi arrivano quelli delle LAL che hanno la stella grande pure loro. Poi arrivano quelli dei poracci al suono dell'arpa della Ryanair. Tutti i pecorari, tutti i poracci. Poi arrivano aerei di tutti i colori che sfrecciano per aria. Invece del fumo lasciano una striscia lunga di coca che ci cade addosso come la neve a Natale in mezzo al presepe. Tu fai il bambinello, io faccio la Madonna. Stiamo fuori. All'ingresso del centro commerciale, ma il butta fuori in cefentrà. Allora io mi incazzo, gli dico questo è mio figlio, fammi comprarmene un completino da Roma di quelli che fanno invidia a tutti quanti, sti figli della mignotta. Ma il butta fuori in cefentrà. Dice che non siamo all'altezza di entrare lì dentro, che non siamo vestiti bene, che non siamo in lista. Allora con noi cominciamo a suonare e strombazzare. I re magi si incazzano e pure i pastorelli cominciano a dire delle vasse ed andasse un affanculo che poi è pure il rumeno, sto stronzo del buttafuori. Buttafuori il rumeno chiama i rinforzi. Allora i re magi tirano fuori scimitarre, kalashnikov, colpiscono il buttafuori con una specie di raggio fotonico e poi gli fanno e faccia entrare, gli fanno. Poi scatta l'allarme. L'esercito del buttafuori esce fuori, ma noi ne famo a pezzi uno a uno. Ma poi niente. Mi ricordo che ti avevamo battezzato in autogrilla. Ma chi? A te, che facevi il bambinello tutto nudo. Tacci tua, m'hai fatto via un corpo, m'hai fatto via. A stronza. Stronzo. Come stai? Posso farti un quiz? Un quiz? Un quiz di quelli che se non si vince niente. Fammelo. Se c'è un sacco di soldi, che ce fai? Mi pippo. Sì, oltre a pippateli, che ce fai? Mi compro un pippotto d'oro e mi pippo. Ho capito. Che? Che incapisci in cazzo. E spiegami te allora. Che ce fai? Te compri una villa con la piscina, te compri una Ferrari, ti giochi al picchetto. Può essere. Può essere che ce fai? Non lo so. Lo vedi? Che? C'è dei chiare. Perché tu ce l'hai? Io sì. E quali so? Lascia perde. Te sto a sentire, quali so? Te dico lascia perde. Te dico dimmele. Te dico ferme. Te dico continua. E te lo dico. E dimmele. E te lo dico. E non lo vuoi di? Sto incinta. De chi? Non lo sapevo. Sono una ragazza madre, vero mo? Sono una ragazza madre. E chi ci si mette più con me, vero mo? Ma che stai a dire? Porterò la creatura da mia madre con qua stronza che non farà altro che rinfacciarmi tutto. E mi troverò un lavoretto part time, vero mo? Ma che te passa, paga poccia, oh? Poi guarderò la televisione e sognerò per Jennifer se è femmina e Cristia se è maschio. Sognerò per loro, stravederò per loro, per quello che non ci ho avuto io. Perché a me non mi piace andare a scopa in giro, guarda un po', a me piace. Ma te sei matta, te stai fuori. Te preoccupi solo se sei stato te, sei uno stronzo. E grazie. Sei uno stronzo, un incapace. Uno stronzo nulla facente, uno stronzo capace solo di fare stronzate. Oh, ma chi ti ha detto che voglio tenere la creatura? Ma chi ti ha detto che voglio tenere io? Vabbè, ah, io il bambino lo tenevo. Semmai io lo tengo. E come famo? Come abbiamo sempre fatto. Famo un cazzo. Io vado a lavorare. Tu che te svegli la mattina e quello piagne. Te svegli a luna, te svegli ai tre, te svegli ai sei, te caga 8 volte al giorno e tu passi il tempo a pulire il culo. Te magni e sbava dappertutto. Te costa come una Ferrari. Niente seratine, niente festine con amici, niente pippatine. Poi c'è l'asilo. I pannolini. Il dottore. La carrozzella. E il vestitino. Tu stai a parlare e quello piagne. Sta a dormire e quello piagne. Stai a scopare e quello piagne. Stai a fumare e quello piagne. Qua la testa di cazzo piagne sempre. Piagne e basta. Solo capace di piagne. Quanto mi stanno sul cazzo quelli che piangono sempre. Un giorno lo pieno o sbatterò addosso al muro mentre guardi i Teletubbies. Ciao, ciao, ciao, ciao. O vuoi tenere? Sì. E se io tieni te, allora lo tengo pure io. Sicura? Sì. No. Non lo so. Mamma, e tenemolo, dai. Magari somiglia a me. Lo chiamiamo André. Non è da frocio. E poi, scusa, sei una femmina. A me da ragazzina mi piaceva Lady Oscar. Lady Oscar? E che me la fai diventare? Lesbica? È meglio lesbica che frocio. E poi, scusa, come si chiamava Lady Oscar? Lady Oscar. Non voglio dire il nome vero. Non lo so. Oh, è il nome vero, da quando non era mascherata. Era sempre mascherata. Ma non era sempre mascherata. Lady Oscar. Perché non ti piace? Amore. Ma fama, amore. Con te. E perché vedi qualcun altro a giro? Purtroppo no. E dai, mo, festeggiamo. C'è niente da festeggiare, mica te voglio come padre. Perché? Ma racconti giusta. A chi io? E chi io? Ah bella, io non scappo. Te caghi sotto. Oh, ma perché m'hai preso? Te conosco. E allora si vede che non mi conosci bene. Te conosco troppo bene. Ma non è che sei te che c'hai paura? Io non c'ho paura. Lady Oscar non c'ha paura. Ma allora perché te mascheri? E chi se maschera? Ma Lady Oscar, che non porta la maschera? Perché ci dovrei avere paura? Tu c'hai paura più di me. Non è vero. Ma scusa, voglio essere come tua madre. Perché no? Sicura? Sì. Sicura, sicura, sicura, sicura. Sì. No. Te voglio più vedere. Vabbè, dai, prima famo amore, oh. Prima te ne vai e meglio è. Oh, non scaricare responsabilità su di me. Te sto a scaricare niente, te sto a dire la verità. Lo vuoi tenere? Lo vuoi tenere? Mi rispondi. Lo vuoi tenere? Lo teniamo, no? Lo teniamo. Dai, amore. Lo teniamo. No. Non voglio togliere le palle. Che dici, mo? Dica la verità, mo. Non voglio manco vedere. Perché? Guarda! Oh, quello è raro, eh! Quello è un aereo della Nuova Zelanda! Air New Zealand! 32 ore di volo, 3 continenti attraversati! Che c'è sta di là? Dove? In Nuova Zelanda! Il mare! Come qua? Sì, come qua!